Smart City, la città intelligente. Buonasera da Maurizio Melis. L'Italia è uno dei massimi contributori dell'Unione Europea, ma quando si tratta di riportare a casa i soldi, cioè di aggiudicarsi finanziamenti, il bel paese lascia molto a desiderare. Questo accade soprattutto per la quota di investimenti che l'Europa destina alla ricerca, dove l'assegnazione è su base, diciamo così, meritocratica. Una delle ragioni principali di questo piccolo dramma, parliamo comunque di miliardi persi su settori fortemente innovativi, è la lentezza ed è la farraginosità delle procedure di assegnazione dei fondi in Italia. Di recente però abbiamo visto come un'eccezione alla regola sia stata rappresentata dal bando Smart City and Communities che il MIUR, quindi il Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha dedicato alle città intelligenti e all'innovazione sociale. A guidarlo c'era Francesco Profumo, che ha da poco lasciato l'incarico di ministro e che è in linea con noi. Buonasera Profumo. Buonasera, buonasera a tutti voi. Dunque, bando questo delle Smart City and Communities, 655 milioni, pubblicato, se non vado errato, il 5 luglio 2012, poi chiuso dopo una serie di proroghe, ma la cosa importante è che dopo un mese esatto dalla chiusura del bando, il Ministero ha comunicato i vincitori, giusto? Sì. E mi risulta che per accelerare i tempi voi siete andati a pescare una legge degli anni 90, o sbaglio, una specie di fossile giuridico che avete riesumato. Com'è andata? Perché c'è bisogno di fare queste cose? Beh, intanto perché il paese in questi ultimi anni ha gestito i bandi sia per la ricerca che in generale con regole nazionali. E queste regole nazionali purtroppo qualche volta o quasi sempre sono abbastanza diverse da quelle europee. E poi quando andiamo a competere in Europa, come lei diceva giustamente, il nostro paese è il contributore migliore dal punto di vista dell'Europa. Noi pestiamo 15 miliardi all'anno, sì, e ne riportiamo a casa tra 9 e 10. E i tre grandi settori sono l'agricoltura, la coesione e la ricerca. Infatti. Quindi in generale noi per ogni euro che investiamo in Europa, e dobbiamo ricordare che queste sono risorse pubbliche che derivano sono tasse dei cittadini, certo, tasse dei nostri cittadini, riportiamo a casa solo 60 centesimi. E quando io ho cominciato a fare questo lavoro mi sono domandato se gli altri grandi paesi europei avessero la stessa condizione. Cioè lei mai dice magari sono quelli grandi che portano a casa poco, oppure quelli non so dell'Occidente, mentre sono quelli dell'Est, detto, che portano a casa tanto. Invece? E invece vediamo che per esempio l'Inghilterra riporta a casa 1,50 euro per ogni euro investito, l'Austria 1,45 euro, 1,45 euro anche l'Olanda, e la Grande Germania 94 centesimi, cioè perde solo 6 centesimi ogni euro. Ogni euro, mentre quindi, noi ne perdiamo 40, no? In 40, certo. E quindi bisogna chiedersi come riuscire a creare una palestra nazionale in modo tale che i nostri ricercatori, che sono bravi, e sono già bravi quando sono studenti, perché in realtà quando i nostri ragazzi vanno all'estero con progetti Erasmus o con progetti di doppio titolo, sono sempre tra i migliori. Brillano. E quando i loro compagni vengono in Italia non sono certamente migliori dei nostri. I nostri ricercatori quando partecipano a selezioni all'estero, per esempio ce n'è stata una di dimensioni importanti al Consiglio Nazionale delle Ricerche Francesi, il 40% dei vincitori sono nostri connazionali, certo. Quindi abbiamo dei buoni atomi, diciamo, ecco. Sì. Dov'è che falliamo? Falliamo poi quando cerchiamo di fare delle molecole. Quando dobbiamo fare delle molecole e questo diventa complicato, perché probabilmente abbiamo qualche tipo di difetto, chiamiamolo in questo modo. Ecco, però diciamo al di là dei difetti antropologici, volevo capire, c'era qualcosa di diverso? Cos'è che c'era in questa legge degli anni 90 che avete ripescato e che oggi non c'è? Quindi che cosa si può fare per replicare questa rapidità in futuro? Allora, intanto è la modalità di selezione, no? Noi abbiamo una legge storica che si chiama la 297, che adesso abbiamo abrogato ed è stata sostituita con una nuova, che è un decreto che si chiama 593, in cui la valutazione veniva fatta da un comitato tecnico-scientifico. Questo significa un gruppo di persone prevalentemente di tipo amministrativo burocratico che facevano la selezione dei nostri progetti. Oggi ci siamo allineati all'Europa e la valutazione dei progetti viene fatta attraverso un sistema di revisione con revisori esterni, con le banche dati di questi revisori che sono quelle dell'Europa, e quindi questo certamente ci mette nella condizione poi di essere allenati rispetto a quella che sarà la vera grande competizione, che è quella europea, perché teniamo presente che oggi le risorse per la ricerca sono in diminuzione sul piano nazionale e sono in crescita in Europa, e i rapporti stanno diventando molto spostati verso l'Europa. Verso l'Europa. Ancora, dal 2014 al 2020. Lo saranno ancora di più, tra l'altro, con il nuovo programma quadro, dove c'è anche un cambiamento proprio per uno dei tre grandi pilastri che lei ha citato, un cambiamento nei criteri di assegnazione delle risorse. Per cui se non diventiamo bravi a riportare a casa i soldi, rischiamo di perderne ancora di più, vero? Certo, una quota importante di risorse sono quelle per i fondi per la coesione, e nella programmazione 2014-2020 il 50% di questi fondi dovranno essere ancora utilizzati per la ricerca. Allora che cosa succederà? Succederà che invece di preallocare i fondi, come è stato fino ad oggi, cioè risuddividerli tra i paesi su base regionale, cioè tanto hai dato, tanto io ti restituisco, decido io come restituirtelo, io Europa, ma ti ridò i soldi che mi hai dato. Finora è stata adottata questa regola sulla coesione sociale. È un po' più complicata, certo, ma certo. Comunque veniva detto un certo numero di miliardi all'Italia, per dirla fuori tutto. Adesso invece ci sarà una pre-competizione tra territori che hanno le stesse specializzazioni. Quanto vale questo? Noi investiamo come Ministero della Ricerca e dell'Università sui 12 enti che sono vigilati dal MIUR, 1,7 miliardi all'anno. Il potenziale per il nostro paese tra fondi Horizon 2020 e fondi per la coesione sono di 3,4 miliardi all'anno. Se noi manterremo le stesse prestazioni che abbiamo oggi, di questi 3,4 miliardi ne porteremo circa 2 miliardi a casa. Se diventassimo bravi come gli inglesi, ne potremmo portare a casa addirittura più di 5 miliardi. Insomma, una cifra analoga a quella di cui tanto si discute, l'IMU della prima casa. Allora, per il momento ci fermiamo. Grazie, professor Profumo. Grazie a voi e buona serata a tutti. Prima di lasciarci una notizia, oggi è stato reso pubblico lo schema di decreto col quale si prolungheranno le detrazioni fiscali per le riqualificazioni energetiche, quelle del 55%. E ci sono alcune novità. Una ve l'avevamo anticipata a inizio settimana, ed è l'esclusione da questo meccanismo delle pompe di calore dei pannelli solari termici. L'altra, che è invece la novità più importante, decisamente positiva, è l'innalzamento dal 55 al 75% del bonus fiscale. Questo varrà fino a fine anno, ma per gli interventi che richiedono tempi più lunghi, come quelli che riguardano l'involucro, la proroga vale già fino a tutto il 2014. Per ora ci fermiamo qui. Lunedì la seconda parte dell'intervista all'ex ministro Francesco Profumo. Buona serata.